bene. Ah, ma voi siete la radio ufficiale del museo, perché quando non c'è nessuno accendo la radio ascolto voi, cioè accendo su internet ascolto voi. E vedi mo che questo è motivo di merito, di orgoglio per noi, lo portiamo come una medaglia, l'ascolto alla delizia del bel riguardo. Allora, 21esima edizione della Festa Internazionale della Storia, un'altra storia, differenti voci nel racconto del passato. Siamo con Alessandro Boninsegna dalla delizia del bel riguardo in quella di Voghiera. Buongiorno e ben ritrovato Alessandro. Buongiorno William, ben ritrovati a voi e grazie ancora per l'opportunità di far conoscere le nostre attività. Attività che vi vede palcoscenico di questi incontri per il Festival Internazionale della Storia. Com'è che arriva in un posto meraviglioso come la delizia del bel riguardo e con che contenuti, Alessandro? Allora, tanti anni fa stavo seguendo la nascente associazione dei piccoli musei. Ci eravamo trovati quella volta in un piccolo comune dell'Appennino forlivese. Stavamo incominciando a parlare quando è arrivato un professore, un personaggio, un pochino in ritardo perché era da Bologna, che si è presentato come professor Orlando Donnerin, Università di Bologna. E quando è toccato a lui presentarsi, presentare le sue attività, ha parlato di questa festa internazionale della storia. L'idea mi è piaciuta e dall'anno dopo anche il Museo Civico del Riguardo ha partecipato, non in maniera continuativa ma spesso e volentieri, alle edizioni della Festa Internazionale della Storia, che appunto quest'anno arriva alla 21esima edizione. Un'edizione che vede protagonista il territorio e anche le zone limitrofe. Intanto si parte il 16 marzo con il prof. Sauro Gelichi dall'Università di Venezia per una Ferrara bizantina che mai mi sarei aspettato, con punto di domanda. Ci puoi dire qualcosa di più? Chi c'è dietro la fondazione di Ferrara? I bizantini? Non ci sono i bizantini? Sono i bizantini con qualche un altro? Se non lo vuol sapere, deve venire domenica a Beriguardo e il professor Gelichi ne parlerà. Tra l'altro il professor Gelichi, che prima era ispettore onorario della superintendenza in Emilia Romagna e che sostanzialmente come ispettore ha praticamente scavato tutto il centro storico di Ferrara. E per quanto riguarda poi il filo conduttore con un territorio veramente ricco, nel 23 marzo successivo Sergio Altafini, ricercatore, siamo esattamente in zona, nel territorio voghentino, Voghenza, Voghiera, noi la ricordiamo chiaramente per quanto riguarda l'aspetto archeologico di ricerca. Ma cosa c'era prima dei Romani? Questo è il prossimo argomento. Quindi direi che tanto anche in questo caso vi è da raccontare. Entriamo anche in questo aspetto, Alessandro. In realtà la storia del territorio di Voghiera e Voghenza è molto più antica di quanto non si pensi, prima dei Romani. Ancora più romana, il sito abitato romano è sicuramente quello più conosciuto, ma sicuramente prima c'erano anche gli Etruschi. Il dottor Altafini, che è un ricercatore storico, ma anche uno storico ricercatore, nonché topografo, archeologo e così via, sta compiendo delle ricerche appunto dal punto di vista topografico e sulle storie dell'epoca, e credo che stia delineando un tratto di storia veramente molto interessante, soprattutto nel suo ambito prima del periodo romano. Una cosa veramente, credo che ci saranno delle novità interessanti e notevoli. E per quanto riguarda lo studio necropoli di età imperiale nel territorio voghentino, beh, questo va da sé, è veramente qualcosa che ne è immediata la visione, ma soprattutto saperne la storia è qualcosa di ulteriormente affascinante. Il 30 marzo l'architetto Paolo Arveda, il Palagio di Bel Riguardo. Ecco, anche questo mi porta a diversi interrogativi. In che senso il palagio? Palagio è il termine che usavano all'epoca, è il nostro palazzo. Bel Riguardo era il palazzo degli estensi. Oggi non c'è molta differenza tra palazzo, edificio, casa e così via. Nel Rinascimento c'era una grandissima differenza, perché palazzo deriva da palatium, che era la sede dell'imperatore romano. Immaginavo ci fosse un'attinenza etimologica, però non ho azzardato. Non c'è quasi niente di casuale. Il palazzo era la sede del potere e Bel Riguardo era la sede del potere dei duchi di Ferrara. Non sono stati reali, sono stati marchesi e poi duchi, quindi non sarebbe il termine preciso, ma di fatto era la reggia degli Este di Ferrara. Ed è veramente molto affascinante per quello che ritroviamo ed è da mantenere all'attenzione di un pubblico che vuole saperne di più sulla nostra storia, È una storia di una città stupenda come Ferrara e come in maniera periferica sia allo stesso modo e altrettanto presente. E che sia all'interno di questa 21esima edizione della Festa Internazionale della Storia da subito ha attirato la mia attenzione. Già conoscete la delizia del bel riguardo, perché ne abbiamo parlato assieme ad Alessandro per altri motivi e in altre motivazioni di approfondimento. Questa è veramente qualcosa che finalmente ha portato un accrescere, a un portare un pubblico che in maniera così attenta ha la possibilità di seguire questi incontri che saranno. Ne abbiamo presentati 4 velocemente, ce ne saranno altri fino al 13 aprile, ma magari avremo modo di risentirci, se dai la possibilità di questo, Alessandro. È una promessa? Quando volete. Grazie. Assolutamente a disposizione. Grazie. Allora, ricordiamo anche il Museo Civico di Belriguardo, che è, oltre che palcoscenico per tutto ciò, una sede espositiva, e sarete accompagnati da Alessandro in maniera così affascinante per scoprire delle cose che a volte diventano motivo di stupore, di estetica e di tutto, se vogliamo. Per la storia direi che non c'è palcoscenico in zona da noi migliore che si possa immaginare, con tutte le cose che si possono ascoltare e sentire. Gli orari di appuntamento, è uno per tutte le giornate o è vario? Sempre alle ore 16. Alle ore 16 si inizia domenica 16 marzo con il professor Sauro Gelichi dall'Università di Venezia, Ferrara Bizantina, punto di domanda, io non mi sarei mai aspettato, quindi per saperne di più indubbiamente questo è un buon motivo di conoscenza e di fascino. Io ti auguro una buona giornata, ti ringrazio Alessandro, ci vediamo a Voghiera, mi raccomando, io sottolineo sempre questa sede perché è molto molto bella. E una buona giornata, grazie per la disponibilità e a presto. William, grazie a te e a presto, e grazie anche a tutti gli ascoltatori.